La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Primo sabato di maggio e noi puntuali qui come sempre alle 18 a raccontarvi tutto il cinema che c'è qui su Radio 24. La Rosa Purpurea, un saluto da Franco D'Assisi. È il mese del Festival di Cannes, il mese del festival più importante del mondo, almeno sotto il profilo mediatico. Arriverà dopo la metà di maggio, ci avvicineremo a questo festival, vi racconteremo cosa si sta preparando, ma è anche un mese di uscite ancora molto molto copiose nelle sale cinematografiche italiane. Pensate che questa settimana sono previsti, nel senso che fanno magari uscite di pochi giorni, ben 16 film. Evidente che è impossibile andarli a recuperare tutti, ce ne sono molti interessanti, noi li abbiamo selezionati, ve li raccontiamo in questa puntata che vivrà anche su interviste come sempre esclusive, a partire da Daniele Vicari, il regista di Sole, Cuore, Amore. Parleremo anche di un concerto davvero straordinario, Harry Potter in Concert, le musiche di Harry Potter eseguite dal vivo con orchestra sinfonica. Giocheremo insieme con il nostro DVD game, ma anche proprio con questo concerto, del quale regaleremo alla fine della nostra trasmissione ben 10 biglietti. E quindi insomma state con noi, segnatevi il nostro indirizzo di posta elettronica, la Rosa Purpurea @radio24.it, per giocare la nostra pagina Facebook, la Rosa Purpurea Radio 24, cliccate mi piace e stiamo insieme tutta la settimana. Cominciamo con l'animazione, cominciamo con i family movie, cominciamo con i ragazzi, i bambini, ma non solo, con un film che mette insieme appunto momenti di animazione, ma anche momenti di animazione digitale, di grafica digitale al computer, per raccontare una storia nella quale i camion, che nell'immaginario infantile, soprattutto maschile, sono veri protagonisti, diventano dei veri e propri mostri. Si intitola Monster Trucks, l'ha visto per noi Chiara Pizzimenti. Trip! Ehi, Sam! Vuoi vedere qualcosa di folle? È andato fuori di testa. Ti avevo detto che era una cosa assurda. I residenti della zona hanno riferito numerosi avvistamenti di una creatura non identificata. Cerchiamo qualcosa di insolito, qualcosa di pericoloso. Che cosa sei tu? La creatura non identificata è uno dei mostri del titolo del film, che si rifugia in un truck, uno di quei camioncini dalle ruote alte che fanno tanto America rurale. Siamo in North Dakota e il truck in cui trova ospitalità il mostro, lo chiamiamo così ma è buono, è quello del liceale Trip. Come tutti i liceali di campagna americani, ha voglia di fuggire. Si sta costruendo un camioncino per questo e la creatura c'entra in pieno. Questo coso è impressionante, è intelligente. È un motore per il mio truck, giusto Peach? L'ho chiamato Creech. Ce la fai a starmi dietro? Bravo! Hai visto? Spaccone! C'è però un problema di base. Da dove viene Creech? È in qualche modo collegato all'incidente avvenuto durante le perforazioni di una compagnia petrolifera? Ovviamente sì. Lui e gli altri sono abitanti, fra la balena e il polipo, ma con gli occhi dolci, delle profondità terrestri. Si nutrono proprio di petrolio e hanno alle calcagne i petrolieri cattivi guidati da Rob Lowe. Trip, questi signori devono parlarti. Non vengo da nessuna parte. Oh, sì che lo farei. Guarda questo. Fermo. Non so se queda lui o io. Reggiti forte! Usiamo un altro ovviamente per dire che le creature sono da salvare, che si riuscirà a farlo grazie ai truck in una corsa che molto più romanticamente si è fatta negli anni 80 in bicicletta e verso il cielo. Insomma, c'è sempre un ET da portare a casa, stavolta verso il centro della Terra. È quel cinema per ragazzi che si vuole rievocare con il passaggio da infanzia a adolescenza ed età adulta. Manca però un po' di sentimento e abbonda invece la parte di corsa. In fin dei conti li devono pur valorizzare questi truck. Just know you're not alone, 'cause I'm gonna make this place your home. Il regista è Chris Wedge e viene dall'animazione di Robots ed Era Glaciale. Il film infatti sa di cartoon e un po' di videogame, tutto standard però, senza grande profondità. Ultimo ovviamente è per un pubblico giovane. E allora, questo era Monster Trucks, il film con il quale abbiamo voluto aprire, così anche con un sorriso e un inno all'andare al cinema in famiglia, questa nostra puntata. A questo punto sentiamo, anzi diamo prima un'occhiata al box office. Ancora non ci sono dati ovviamente sui film di questa settimana, ma su quelli della scorsa settimana sì. A dominare è stato I Guardiani della Galassia volume 2, che ha già raggiunto quasi 4 milioni e mezzo di euro di incasso. Sta andando molto molto forte in Italia, è una vera sorpresa di questa parte della stagione, Famiglia all'improvviso, istruzioni non incluse. Ne avevamo parlato un paio di settimane fa, la storia di questo padre interpretato da Omar Sy che incontra una bambina che non sapeva di avere, sua figlia, e a questo punto dovrà rivedere un po' le cose della sua vita. Terzo posto per Baby Boss, davanti a Fast and Furious, che in Italia ha già superato i 14 milioni di incasso, andiamo indietro per vedere anche una buona prima settimana per La tenerezza di Gianni Amelio, che è stato nostro ospite la settimana scorsa, con 1 milione di euro incassati al cinema. Linea la viabilità, fra poco torniamo insieme, entriamo nel clima dei film da adulti, diciamo così, di questa nostra puntata con Boris Sollazzo, fra poco. La rosa purpurea. Ed eccoci ancora qui, allora, La Rosa Purpurea. Abbiamo detto cominciamo con i film, cominciamo con Insospettabili sospetti, e troviamo collegato con noi al telefono Boris Sollazzo. Ciao Boris. Ciao Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, cominciamo da qui. Una settimana, dicevo prima, molto molto densa, tantissimi film che arrivano. Noi abbiamo fatto le nostre selezioni e Insospettabili sospetti c'è entrato, perché fa molta simpatia questo film che ancora una volta racconta, come dire, uno spaccato di vita che ha per protagonisti tre attori che hanno dei volti e dei nomi veramente che riempiono la locandina: Morgan Freeman, Michael Caine e Alan Arkin, tre vecchietti di quelli che danno le briciole ai piccioni al parco, che guardano i cantieri, che hanno visto la loro vita, come dire, vissuta fino in fondo, ma pian pianino evaporare, e soprattutto vedono tutto quello che era stato il frutto del loro lavoro, i loro risparmi, vanificati dal cattivo utilizzo delle banche, che insomma rimanda anche a una situazione assolutamente reale. Allora si vedono costretti a deviare dalla retta via. Pensavo di fare una rapina in banca. Che hai detto? Sto pensando di rapinare una banca. Oh, penso che mi comprerò una Ferrari. Io sono stato ingaggiato dai Knicks. Gran giornata per tutti, eh? Fantastica. Si prenderanno la mia casa. Ti tolgono la casa e non ci dici niente. Che potevate fare? Prestarmi soldi? Siamo tutti al verde, sia io che voi. Le banche hanno distrutto questo paese. E a loro non succede mai nulla. E allora, questa è un po' la summa nel ragionamento nel quale i tre amici dalla panchina si alzano e vanno appunto verso una rapina. Con quali esiti, Boris, e narrativi e cinematografici? Ma direi decisamente buoni. Fai fatica a immaginare, anche se non è il suo primo film, c'era anche Wish I Was Here, che il dottor Dorian di Scrubs, che non era propriamente un ragazzo completamente a posto, sia diventato un regista che ha chiaramente la commedia nelle sue vene, e questo era difficile non immaginarlo, ma che avesse una commedia non demenziale e folle come quella di Scrubs, ma gentile, aggraziata, graziosa, e allo stesso tempo però politicamente scorretta, perché poi quello che raccontiamo è un uomo che insomma aveva messo da parte dei soldi, aveva costruito la sua famiglia, la sua vita nella maniera migliore, come Michael Caine, un altro che ha aspettato di morire così a lungo che alla fine è sopravvissuto a se stesso, come Alan Arkin, e un uomo dedito alla famiglia, in particolare alle sue ragazze, a sua nipote, a sua figlia, e che però non permette a nessuno di aiutarlo, come Morgan Freeman. Anche Michael Caine ha una nipote molto particolare che lo chiama Giovanotto. E in questo senso, che cosa fa Zach Braff, ovvero il dottor Dorian di Scrubs? Vuole raccontare l'America non ad altezza bambino, come fanno in molti, non facendo magari un film di denuncia, ma raccontando come tre vecchi si possano trovare truffati da un fondo pensione e da una banca. E tre vecchi che hanno avuto l'occianamente sempre un passato da buoni cittadini, che hanno sempre fatto ciò che era giusto, si scoprono a voler fare qualcosa di sbagliato per farsi giustizia. Senza, diciamo, il Denzel Washington di John Q, che è molto violento, ma cercando appunto un heist movie molto sui generis, e entrando di diritto in quella categoria della commedia della terza età, della commedia che può essere sentimentale o criminogena, come può essere sentimentale e artistica Quartet, come può essere Las Vegas, appunto per quanto riguarda un altro heist movie, come può essere il Marigold Hotel, cioè raccontare quel tipo di terza età. C'è molto divertimento, si prendono tre attori che in vecchiaia sono maturati e sono forse anche migliorati, la regia non è invadente, perché quello che conta ed è evidente è l'azione, la scrittura, a orologeria, è una regia che sia ordinata, che sia intelligente, ma che non ha bisogno di chissà quale colpo di tacco. Alla fine ne esce fuori una commedia divertente che per una volta il bambino può andare a vedere con il nonno, insomma, che tutta la famiglia allargata possa andare al cinema non capita spesso, nel caso Insospettabili Sospetti. Certamente non è un capolavoro, ma di sicuro vi fa passare un weekend godibile. Willy, Al se n'è andato, serve una nuova auto per la fuga. Dove l'hai preso quell'affare? L'ho rubato. Salta nel cestino. Ma perché mi hai preso? Per il team. Entra in questo cestino. Non ci voglio entrare nel cestino. Ce la facciamo a passare? No, sì. Sta scattando il rosso. Sì. No, Joe, non ce la facciamo. Ce la possiamo fare. Ce la facciamo. Invece sì. Peripezie di tre vecchi in gamba, molto in gamba. Questo era il film con il quale abbiamo iniziato la nostra trasmissione, Insospettabili Sospetti. Tra l'altro bella questa cosa che ha detto Boris, andare a vedere, spesso diciamo film per tutta la famiglia, film per genitori e figli, no, film per nonni e nipoti, e questa è una cosa che sarebbe molto bella. Anzi, vi chiedo, quanti di voi hanno cominciato la loro carriera cinematografica accompagnati dal nonno? Io sì, per esempio, e questo è una cosa che ricordo ancora con grande piacere. Allora, giochiamo insieme, perché è arrivato il momento di farvi ascoltare la prima traccia del film misterioso di oggi. Allora, patata, perché sei qui? Eh? Dai, racconta, perché ti hanno portato qui? Ma guarda, hai delle patate nel piatto. Sei una patata che mangia patate. Ragazzi, patata è un cannibale. Un cannibale. Cioè, si parla molto di patata che mangia patate, eccetera, eccetera. Insomma, cominciate a farvi venire qualche idea. È un film di questa stagione, un film... No, non ve lo dico adesso, ve lo dico dopo, casomai. Cominciate a indovinare se l'avete già fatto, e scrivete titolo del film e vostro indirizzo, mi raccomando, alla Rosa Purpurea, @radio24.it, per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film, di cui fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia. Allora, abbiamo dedicato questa parte del nostro programma un po' alla terza età. Non è un caso che molti film, sempre più film, abbiano per protagonisti ultra sessantenni, sessantacinquenni, settantenni e ancora di più, fra i grandi attori, tra l'altro. E questo è anche un grande piacere, perché ci permette di rivedere sullo schermo attori che hanno fatto la storia del cinema. Dicevo, non è un caso questo, non è un caso perché... Un po' il pubblico, chiaramente, il pubblico della terza età è un pubblico importante, una fetta di pubblico sempre più importante, ma anche perché da un certo punto di vista si sono spostate le tematiche da raccontare, ed è quello che succede, e si è spostato anche il senso di gioventù che è dentro tanti vecchi, è quello che incontra la protagonista di Adorabile Nemica. Io sono specializzata in necrologi. Quindi, quando verrà il momento, scriverò il suo necrologio. Io voglio che lo scriva adesso. Ah. Io sono una donna ragionevole, non mi sono mai sorpresa di niente, non mi sono mai trovata in situazioni che non potessi affrontare. Quindi, essendo una donna ragionevole, l'idea di lasciare il mio necrologio al caso è completamente irragionevole per me. Ma è quello che fanno tutti, lo fa tutto il mondo da centinaia di anni. Se avessi fatto quello che fa tutto il mondo, non sarei mai arrivata dove sono arrivata e ho raggiunto una bella posizione. Questo è lo snodo narrativo iniziale di Adorabile Nemica. Abbiamo parlato di nonni e nipoti. Ecco, siamo di fronte praticamente a due generazioni che potrebbero esserlo. Una milionaria molto molto di ferro, ligia, dispotica come Harriet Lawler, ha talmente la mania del controllo della propria vita che vuole anche far scrivere il proprio necrologio. Cioè non si accontenta del fatto che una volta trapassata sia qualcun altro a scrivere le solite, diciamo, cose o a volte anche un po' banalità che si scrivono per ricordare il caro estinto. Vuole farlo di persona, vuole che questa cosa le somigli, e allora incarica una giovane giornalista con ambizioni, ma che nel frattempo lavora nel settore necrologi del giornale locale, che è appunto Amanda Seyfried, per incaricarla di questo. Ovviamente per fare un lavoro così particolare, così delicato, bisogna conoscersi, e allora comincia una frequentazione fra le due che le porterà a diventare adorabili nemiche, come dice il titolo, ma anche molto molto amiche nell'anima. Non abbiamo detto che la protagonista assoluta di questo film è una straordinaria Shirley MacLaine, che appunto troverà insieme ad Amanda Seyfried una seconda giovinezza, e soprattutto con grande determinazione metterà a segno quelli che sono i suoi ultimi obiettivi di una vita, per esempio quello di condurre una straordinaria trasmissione radiofonica, facendola DJ e mettendo in musica tutto il vinile che può. E allora anche questo sapore un po' vintage, ma così prepotentemente ritornato alla ribalta del vinile, inonda lo schermo e lo spettatore. Boris, io ti dico, sono quei film che magari sai dove stanno andando, ma sei contento che vadano in quella direzione, e dai quali esci comunque con un sorriso e magari anche con qualche brivido. Mi sembra che la missione sia compiuta. È compiutissima la missione, perché alcune volte la prevedibilità non è un difetto. In questo caso poi c'è un soggetto che inevitabilmente dichiara la sua volontà di stupirti in una certa maniera. Può sembrare un ossimoro, ma è così, diciamo, lo stupore prevedibile. Quando un film è così prevedibile, è perché il suo soggetto chiaramente lo vuole. In questo caso parliamo di una donna ossessionata dal controllo che vuole scrivere o far scrivere il proprio necrologio con lei ancora in vita, quindi potete immaginare, senza anche leggere recensioni con spoiler, quali possano essere i prevedibili esiti negativi di qualcosa del genere. Se qualcuno con te ancora in vita va a chiedere cosa pensano i tuoi parenti, i tuoi amici di te, probabilmente non usciranno cose belle. Se a farlo è una ragazza giovane, ambiziosa, molto carina, che magari quel lavoro non ha voglia di farlo, ma ne capisce l'opportunità, e tu sei un'anziana che è rimasta sola, sei molto intelligente, e in questa intelligenza è diventato sarcasmo, è diventato giudizio e pregiudizio, ovviamente lo scontro generazionale potete immaginarvelo. E però in questo caso quello che ti viene in aiuto, e anche questo era prevedibile perché parlavamo di Shirley MacLaine, è il talento, è la grandezza di un'attrice. E Shirley MacLaine, ottantenne, riesce a capire il senso profondo di questo personaggio, un po' perché è una carriera, è una vita che interpreta donne scomode, donne difficili, e quindi prende gli sguardi dell'appartamento, la ruvidità del suo personaggio di Voglia di tenerezza, li mette insieme in una donna che ha le sue difficoltà, ma che è anche una donna pienamente realizzata, e invade lo schermo inevitabilmente, con però generosità. Amanda Seyfried, che non è una cima nella recitazione, ha un viso estremamente telegenico, ma non è mai riuscita a fare chissà quali performance, viene in qualche modo innalzata anche dalla performance di Shirley MacLaine. Questo non vuol dire che vogliamo in qualche modo sminuire la regia, sminuire la fotografia, però quando hai Shirley MacLaine per le mani è un po' come quando hai, citando un altro film che è nelle sale, Diego Armando Maradona in campo. Hai bisogno davvero di molto poco altro per poterti vedere e godere un film di grande spessore. Quello che però possiamo sottolineare, oltre alla sua prova, è sicuramente una scrittura intelligente, una scrittura che evita la prevedibilità e ogni tanto ti spiazza. Penso per esempio al rapporto con la figlia della protagonista, Anne Ash, che invece sa spiazzarti, probabilmente perché Una delle ultime cose che ti viene in mente in tutto quel bailam di sentimenti e giudizi. Nel complesso, Adorabile nemica, proprio come dice il suo titolo, adorabile. Sono piuttosto avanti con gli anni, come avrà notato, ma l'età porta anche dei vantaggi. Uno di questi è che mi alzo molto presto ogni mattina, perciò vorrei condurre la fascia mattutina al posto di Dana Silver. Salve, sono Dana. No, tu sei fuori. Hai una voce troppo acuta e i tuoi gusti sono pedestri. E che tipo di musica manderebbe in onda? Questa è la domanda sbagliata. E qual è quella giusta? La domanda giusta è che metterebbe dopo aver mandato Gin House Blues di Nina Simone. Adorabile nemica nei cinema, a questo punto linea alla regia. Fra poco torniamo qui con Sole, Cuore, Amore, sarà con noi il regista Daniele Vicari e poi ancora tanto cinema insieme qui con noi alla Rosa Purpurea, fra poco. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua, terza parte della Rosa Purpurea, un film italiano del quale vogliamo occuparci, si intitola Sole, Cuore, Amore, come il famoso ritornello della canzone di qualche, il tormentone di qualche anno fa, Dammi tre parole, ricorderete, Sole, Cuore, Amore, chi non vuole sole, cuore e amore nella propria vita? Insomma, ne abbiamo tutti un po' bisogno, ed è quello che succede nel nuovo film di Daniele Vicari, con Isabella Aragonese e Eva Grieco, protagoniste di un'amicizia un po' particolare tra due donne che si sfiorano alla fermata dell'autobus, una vive praticamente solo di notte, l'altra lavora praticamente tutto il giorno e hanno però qualcosa da scambiarsi. Una giovane donna, appunto Isabella Aragonese, si sveglia tutte le mattine per affrontare una traversata vera e propria, 2 ore di viaggio per arrivare a Roma a lavorare in un bar nella quale è indiscutibilmente la stella. Finisce il lavoro, torna indietro, l'aspettano a casa un marito disoccupato e 4 figli, dei quali tenta, diciamo così, anche con qualche peripezia, di occuparsi. Scusa, io ho cercato di far piano. Non ti preoccupare, è mezzo sveglio. E scusa pure per stanotte. Certo, che fregatura, Ti sei sposato una donna e ti ritrovi una marmotta in letargo. Ma perché ti sei alzato? Non c'è bisogno. No, è che oggi comincio qualche giorno di lavoro dallo stabilimento da Giorgio. Sì, devo fare 3 muretti e uno scolo. Ci paghiamo il gas, dai. Ma lei invece è una performer, una ballerina che usa la danza e attraverso la danza veicola la propria personalità, lo fa in tante situazioni diverse che vanno dalle discoteche, dal classico cubo a situazioni più metropolitane, ma Vale sa che questa sua attitudine, questo suo lavoro non è accettato, non è apprezzato, non è valutato quello che dovrebbe, soprattutto dalla madre. Per lei il mestiere che faccio è uguale alla prostituzione. No, non mi ricordo. Lei ti ha detto copriletto perché tu l'hai detto soprammobile. Ma ti rendi conto? Questo è il dialogo fra me e mia madre da sempre. Beh, ma mica te volevi che sei una mignotta. E io la conosco, mia madre. Male! Oh, sei impredura tu! E dagli una possibilità a sta povera donna. Due donne, due amiche, dicevamo, la cui amicizia avviene praticamente quasi a distanza. C'è, è forte, ma si incontra solamente in certi incroci momentanei della loro vita. E ciò nonostante è un'amicizia vera, profonda. È diciamo un po' il ragionamento sul quale queste due donne cercano una via d'uscita alla loro condizione. Una condizione che è già successiva a quella di una generazione che è stata raccontata molto dal cinema, che non trova sbocchi, che viene come dire sottovalutata, e qui siamo già forse un passo oltre, siamo già forse all'accettazione, se non alla rassegnazione un po' rispetto a questo mondo. È con noi Daniele Vicari, regista. Ciao Daniele. Ciao, buongiorno a tutti. Ben ritrovato alla Rosa Purpurea. Allora, un film che, come dire, ci mette di fronte a una realtà della quale abbiamo parlato sempre come presente e che forse sta diventando già passato, cioè la realtà di una generazione che come dire quelle vie d'uscita non le ha trovate e un pochino sta cominciando a farci conti, forse anche a rassegnarsi, è così? Beh, prendere le misure con quello che è successo negli ultimi 10 anni nel mondo non è facile per degli esseri umani che magari non hanno gli strumenti economici per avere distacco rispetto a questa situazione. Prendere le misure con un sistema che pretende completamente di azzerare il tuo tempo di vita in favore di un tempo di lavoro che si prolunga all'infinito e che ha come caratteristica di stipendio un rapporto inversamente proporzionale, cioè più lavori e meno guadagni, è una situazione che credo che sia ormai talmente generalizzata che è persino ovvio parlarne. Però, come diceva Barthes, dentro l'ovvio purtroppo c'è il senso. Anche perché l'ovvio spesso appunto si dà per scontato e non se ne parla, e quindi diventa meno ovvio del possibile, del dovuto. Mi è interessato molto l'aspetto anche, come dire, intanto di scelta di raccontare questa storia, Daniele, e anche la scelta registica che tu hai fatto, che è una scelta in certi momenti sporca, dispari, è una scelta non omologata, non inquadrata, non calligrafica, immagini in movimento, fuori fuoco. Hai usato un impatto visivo che è molto, come dire, ricorrente in un certo cinema indipendente americano, ma poco in Italia. Beh, che ne so, Chuck Barnett, che quando racconta il suo straordinario film Kill Our Ship, la condizione dei neri americani e del conflitto che c'è tra la condizione dei neri americani poveri o dei neri americani borghesi, eccetera, fa questa operazione che dici tu. E anche lì il fuori fuoco ci aiuta a capire quanto è difficile interpretare quel mondo. Quindi la tua osservazione è tutt'altro che peregrina. Anche se poi il mio film un po' ha delle radici molto anche italiane, perché noi fino a qualche anno fa, grazie anche a tutta quella cosa che abbiamo chiamato neorealismo, un fenomeno gigantesco che ha influenzato il cinema di tutto il mondo, il quotidiano abbiamo avuto la capacità di raccontarlo, dico, come cinema italiano, come cinematografia nazionale. Sono un po' di anni che il quotidiano spaventa i cineasti, perché forse apparentemente è noioso, invece nel quotidiano accade la nostra vita, no? I nostri conflitti, l'amore, il conflitto con questioni sociali, lavoro, condizione generale di vita, accadono nel quotidiano. Sai, non tutti siamo supereroi, in qualche modo questi personaggi di cui racconto io sono dei supereroi del quotidiano, sono delle supereroine del quotidiano. Prossima domanda, un po' a modo di carambata, da Boris Sollazzo. Boris. La domanda che faccio a Daniele è abbastanza semplice. Secondo lui il motivo per cui c'è questa paura, perché forse nel neorealismo c'era l'eccezionalità del quotidiano, no? Di un ladro di biciclette, c'era una narrazione che poteva essere facile nella sua essere parabolica. Questo è quasi un horror sociale, se vogliamo, nella sua ineluttabilità. E mi chiedo che cos'è che fa paura del quotidiano e perché lo racconti solo tu. Io credo che faccia più che fare paura, diciamo, è difficile vederlo, no? È difficile vederlo perché noi che facciamo cinema viviamo in una società separata, in un mondo a parte, un po' come siamo parte della classe dirigente. E la classe dirigente del nostro paese fa fatica a vedere perché siamo tutti così incazzati, perché gli italiani sono tutti così incazzati, no? E allora, come diceva Zavattini, bisogna prendere l'autobus. Infatti Eli vive dentro l'autobus, il treno vive dentro la metropolitana, ed è lì che danza. E danza, lei danza dentro la metropolitana come la sua amica Eli danza nelle discoteche. La sua amica Vale danza nelle discoteche. Con una differenza, che Vale è un personaggio un po' postmoderno, cioè una che ha capito che non potrà mai avere una famiglia, quindi è una single, e da questo punto di vista ce la fa di più rispetto a Eli, perché non si carica così tanto di fatica al punto da soccombere. E Vale, attraverso la danza, che è danza contemporanea, che noi conosciamo molto poco in Italia, ma nel resto del mondo è una cosa valutata e conosciuta, Vale, attraverso la danza contemporanea, interpreta il proprio dolore e anche il dolore dell'amica. Però la cosa che a me commuove, e che secondo me è la cosa che tiene in piedi la nostra società, è il fatto che soprattutto le donne riescono a sviluppare questo sentimento di amicizia che possiamo chiamare sorellanza, che supera queste barriere. E la considerazione amara che io faccio è che purtroppo non basta nemmeno quello. Isabella Aragonese, Eva Grieco, protagoniste di Sole, Cuore, Amore di Daniele Vicari, qui con noi. Grazie Daniele e in bocca al lupo. Crepi, e grazie a voi. Boris Sollazzo rimane con noi perché fra poco dobbiamo parlare di un altro film. Prima però la seconda traccia del film misterioso di oggi. Ancora alzati a quest'ora e fanno anche delle porcherie. Vieni, piccola mia, torniamo a casa. No! Farti rapire da uno sbirro è il massimo. Lasciami! Ah, eccola qui. La lasci, signora? Io la denuncio. E allora un film d'animazione europeo della prima parte di questa stagione, La Rosa Purpurea, @radio24.it, se avete indovinato di che film si tratta, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo per provare a vincere una delle due copie in Blu-ray di questo film che sveleremo fra poco, prima della fine della trasmissione. E allora, un altro film, dicevamo, di cui parlare, so di toccare un tasto che a Boris Sollazzo, come dire, dà chiaramente un grande piacere, perché fra i film che escono questa settimana ce n'è uno dedicato a un mito, forse al mito del calcio internazionale. Si tratta di Diego Armando Maradona, il film si intitola Maradonapoli. Il 30 giugno del 1984 successe una cosa grande. Si sentiva che stava per arrivare, vena, non vena, vena. Il 5 luglio lui salì dalle scale con una maglietta bianca semplice, fece un palleggio e poi lanciò il pallone in aria verso il pubblico. Fu l'entrata trionfante come un re. Per noi napoletani è stato l'unico demone che ci ha portato in paradiso. Diego! Maradona è già stato raccontato spesso al cinema anche da firme famose, pensate a Emir Kusturica, ma qui si racconta il rapporto fra Maradona e Napoli, il Napoli e i napoletani, perché Maradona è quello che è stato quello che è stato a Napoli. Si parte da quella data, 30 giugno 84, l'avvento di Maradona al Napoli. Boris, come dicevo, tema che ti sta a cuore sotto tanti punti di vista, cerchiamo di stare su quello cinematografico, come ti sembra questo film? Beh, è proprio quello cinematografico il più interessante, perché se pensate a un film calcistico, siete abbastanza lontani di documentari, film, citazioni di Maradona, il cinema è pieno, no? Da Sorrentino a Kusturica lo hanno capovolto, guardato, indagato, e tutti poi però credevano nella tentazione di parlare del Maradona calciatore. Alcuni hanno anche parlato del Maradona uomo, però nessuno forse ha parlato della reale magia che ha creato Diego Armando Maradona, che non è solo quella con un pallone ai piedi, ma il fatto di aver fatto innamorare una città, un popolo, una cultura, tanto da plasmarla anche su di sé. Maradona disse nell'87, quando vinse il primo scudetto, io oggi ho vinto a casa mia, un anno fa in Messico non era casa mia. Ed è lì che nasce la storia d'amore tra Diego Armando Maradona e Napoli. Alessio Maria Federici, che è un ottimo regista e nel contempo anche romanista, probabilmente è il giusto distacco da regista e da tifoso di un'altra squadra per capire con grande forza, con grande capacità, che la cosa interessante del fenomeno Maradona è proprio quella. A 30 anni di distanza è ancora un dio in quella città, e non ci va col pregiudizio, non va a cercare il folklore. Lui vuole proprio indagare, prende una sorta di questionario prustiano, sono 7 domande, e le chiede all'avvocato, al giornalista, alla coppia di periferia dei Bassi, alla coppia padre-figlio. C'è una scena bellissima in cui un vecchio padre dice: "Tamolo, tua madre era juventina", come se stesse dicendo qualcosa di tragico, qualcosa di drammatico, ed entra all'interno di una città, entra all'interno della testa di una città, del cuore di una città, e si capisce che Maradona era riscatto, rivalsa di una città che cercava una nuova vita, perché, come dice alla fine del film uno dei protagonisti, che sono tutte persone normali, anche questa è una grande intuizione, Maradona ci ha insegnato che si poteva fare, anzi, che sa da fa. Ed era quello il segreto di Maradona, era un simbolo, è un simbolo, lo è tuttora. Alessio Maria Federici ne ha raccontato una storia d'amore, forse una delle più belle dei tempi moderni, ed è questa la forza di Maradonapoli, che sarà fino al 10 maggio, anniversario del primo scudetto del Napoli, nelle sale. Fino al 10 maggio, quindi 180 schermi coperti con Maradonapoli, e questo è il nostro ultimo invito alla visione di questa settimana. Grazie Boris, ci sentiamo fra 7 giorni. Alla prossima settimana e buon cinema. Adesso viabilità, fra poco torniamo insieme con Harry Potter in concert. 10 nostri ascoltatori a vedere sabato sera, il 13 di maggio a Milano agli Arcimboldi, questo straordinario concerto con le musiche di Harry Potter eseguite dal vivo da un'orchestra sinfonica. Fra poco. La rosa purpurea. Note inconfondibili quelle della colonna sonora di Harry Potter, note che hanno accompagnato più di una generazione, cresciuta prima con i libri, poi con i film, con tutta la saga lunghissima di Harry Potter. Note che adesso potranno essere ascoltate dal vivo con il concerto Harry Potter in concert. Quattro date, quattro concerti anzi, al Teatro degli Arcimboldi di Milano, il 12, 13 e 14 maggio, il 13 tra l'altro una doppia pomeridiana e serale, un concerto straordinario, 80 musicisti dell'Orchestra Italiana del Cinema che suoneranno dal vivo in sincronia con le immagini, i dialoghi e gli effetti speciali, ogni nota del primo film. Noi ne parliamo con Marco Patrignani, che è in collegamento con noi e che è il produttore di questa orchestra del cinema e anche di questo straordinario spettacolo. Benvenuto alla Rosa Purpurea. Grazie a tutti voi e agli ascoltatori di Radio 24. Allora, io ricordo già che manderemo 10 nostri ascoltatori a vedere il concerto di sabato sera agli Arcimboldi, quindi anzi prendetevi già nota del nostro numero di SMS 349-238-6666, ripeto 349-238-6666. Da questo momento i primi 5 ascoltatori che ci scriveranno semplicemente Harry Potter al nostro numero di SMS potranno andare in coppia a vedere il concerto del 13 sera. Patrignani, intanto come è venuta in mente questa idea meravigliosa di fare l'Orchestra Italiana del Cinema? È venuta in mente per via della sede dove abbiamo preso vita, che sono gli studi di registrazione Forum Music Village, creati da Ennio Morricone, Armando Trovajoli, Luis Bacalov e Piero Piccioni, pensate nel lontano 1969, un luogo dove sono state incise oltre 3.000 colonne sonore, tra cui tutti i premi Oscar italiani e molte delle colonne storiche internazionali, e quindi quale luogo migliore dove far nascere un'orchestra che è esclusivamente dedicata alla rappresentazione del patrimonio delle colonne sonore italiane ma anche internazionali. Cosa si vedrà in questi concerti milanesi? A che tipo di spettacolo assisterà il pubblico? A uno spettacolo incredibile, già sold out in tutto il mondo peraltro, in cui assisteremo alla proiezione integrale del film, come siamo abituati a vederlo al cinema, su un grande schermo ad alta definizione, con dialoghi e effetti, ma con la colonna sonora eseguita dal vivo da oltre 85 musicisti, che quindi creano una simbiosi con le immagini e con i dialoghi assolutamente incredibile. È un'emozione travolgente, perché il suono di un'orchestra sinfonica, potete immaginare, è veramente travolgente, così come l'emozione che ne deriva. Praticamente avete abbassato totalmente la colonna sonora, tranne i dialoghi del film, e quella la fate voi. Sì, esattamente, più che abbassato è proprio rimossa dal produttore originale, che è Warner Brothers, che rimixano il film per questo utilizzo di cineconcerto, perché è una produzione, diciamo, vera e propria, calibrata per essere eseguita in questo modo. È un po' un ritorno all'utilizzo della musica d'accompagnamento al cinema muto, in un certo senso, no? Sì, le origini sono quelle, ma in questo caso con il dialogo degli effetti, diciamo, la risultante è completamente diversa, l'emozione è diversa ed è incredibile assistere proprio al challenge, alla sfida alla quale è sottoposta l'orchestra e il direttore d'orchestra. Pensate che ce ne sono solo due al mondo in grado di fare questo, perché per l'intera durata del film i musicisti devono essere in perfetto sincrono al millimetrico con quello che succede sull'immagine. Assolutamente, se si sbava è finita, cioè, sì, è un ritardo che ci si porta dietro poi per sempre. E vi assicuro che questo si percepisce, il pubblico lo percepisce, ed è il motivo che appunto genera poi questa emozione travolgente, lo ripeto, perché è quello che è successo a Roma in occasione della prima, ma è quello che succede in tutto il mondo. Pensate che in contemporanea con Milano ci sta la Royal Albert Hall di Londra, che dove viene seguito Harry Potter nella stessa situazione, quindi è un'emozione che sta coinvolgendo il mondo intero e che io invito tutti gli amici di Radio 24 a vivere, perché è un'esperienza che si racconta e che non si dimentica facilmente. E allora ricordiamo l'appuntamento: Teatro degli Arcimboldi di Milano, da venerdì a domenica della prossima settimana, quindi dal 12 al 14, 4 esibizioni, venerdì sera, sabato pomeriggio, sabato sera, domenica pomeriggio. All'incontro, al concerto di sabato sera, 10 nostri ascoltatori, SMS 349-238-6666, scrivete Harry Potter, i primi 5 potranno andare in coppia a vedere questo straordinario Harry Potter in concert. Grazie a Marco Patrignani e grazie all'Orchestra Italiana del Cinema. Grazie a tutti voi. E allora, davvero uno spettacolo straordinario, quello a cui portiamo i nostri ascoltatori. Allora, adesso noi siamo in zona cinema da consumare in casa, cinema da vedere quando proprio non possiamo andare a vederlo sul grande schermo, che è il suo luogo di elezione. Cominciamo con il risolvere il game di 7 giorni fa. Il cane del signor Giuseppe l'è entrato nel cortile di casa nostra. È corso dietro al gatto, l'ha preso e l'ha ammazzato. Cosa c'è da mangiare stasera? Coniglio. Ma è possibile che tutte le volte che muore un gatto tu mi cucini il coniglio? E allora, è stato un gioco partecipatissimo, perché ovviamente sapevamo di andare a toccare un tasto che sta molto caro ai nostri ascoltatori, ma insomma a tutta una generazione che lo ha visto quando era il momento. Ragazzo di campagna, uno straordinario Renato Pozzetto. I primi a scrivere e a indovinare sono stati Francesco Curto di La Morra, provincia di Cuneo, e Alessandro Aliprandi di Montesilvano, provincia di Pescara. Sono loro i due ascoltatori che ci riceveranno il DVD, tra l'altro di nuova edizione, con anche tutti i contenuti speciali di Ragazzo di Campagna, che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, parliamo della storia di Artemio, che abita in campagna e decide di andarsene quando gli è imposto il matrimonio con Maria Rosa, la desolante Maria Rosa. È un'iperbole comica delle differenze tra la campagna e la città nei ruggenti anni Ottanta, ed è uno dei film che hanno consacrato la comicità surreale meneghina di Renato Pozzetto. Incredibile ma vero, un film così famoso non era mai stato distribuito in DVD se non in un'edizione import dall'Est Europa, oppure in una versione da edicola targata a Fabbri Editore e scomparsa presto nei meandri dell'irreperibilità. Insomma, ci ha pensato la solita Mustang Entertainment a colmare la lacuna e a consegnarci un'edizione preziosa, con un disco in cui si trovano come contenuti extra interviste sfiziose come quella a Massimo Boldi, a Sandra Ambrosini, e ovviamente quella piena di dettagli a Renato Pozzetto. La definizione non è altissima, ma il disco è imperdibile. Diamo un'occhiata anche a un paio di segnalazioni dai palinsesti televisivi, Giulio. Mercoledì 10 maggio, in maniera quasi contemporanea, magari mettere i palinsesti d'accordo non è sempre facile, due film di Michael Mann: Hit la sfida su Paramount Channel alle 23 e Black Hat su Rete 4 alle 23.50. Sì, tra Paramount e Rete 4 si deve fare una scelta, oppure attivare quei vecchi o nuovi sistemi di registrazione, perché è veramente difficile scegliere tra due film di un gigante del cinema contemporaneo come Michael Mann. Da una parte, su Paramount abbiamo Hit, che è la sfida tra Al Pacino e Robert De Niro, tre noir di noir epico e umanissimo, con una cura veramente struggente per i personaggi, persino quelli e soprattutto quelli secondari. Dall'altra parte, su Rete 4, Black Hat, dove questo tipo di cinema è invece proiettato 20 anni dopo, in un presente completamente cambiato, fatto di hacker, virus, complottismo e attacchi informatici, dove tutto sembra, e anche il cinema sembra più astratto, e dove comunque Mann riesce a far percepire qualche resta di umano in tutti questi pixel. Due film assolutamente da non perdere. Giovedì 11 maggio, un capolavoro di Marco Ferreri, Dillinger è morto, su Rai Movie alle 1.05 di notte. Sì, a 20 anni dalla morte di questo regista radicale, sottovalutato e ancora oggi poco compreso come Marco Ferreri, è uno dei suoi massimi capolavori, Dillinger è morto, che è un impietoso pedinamento di un giorno di banalissima, ordinaria, stanchissima follia. È un film per un attore solista, Michel Piccolin, spazi borghesi, dove sono gli oggetti, i movimenti, il tempo e lo spazio a fare il film. Sono letteralmente il film, perché non accade nulla o quasi nulla, e per paradosso nulla si muove, perché si muove solo l'occhio del cinema. È uno dei film veramente più radicali sull'alienazione dell'uomo contemporaneo dopo il boom. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione. Un annuncio: fra poche ore, alle 21 a Milano, al Cinema Beltrade, grande serata con La Guerra dei Caffoni, il film di cui abbiamo parlato settimana scorsa e che approda appunto alla Beltrade di Milano stasera alle 21 con tutti i protagonisti, l'editore, il distributore del film in sala, per questo film che veramente ha molto molto convinto. E poi vi ricordo la soluzione del game di questa settimana. Se abbiamo giocato con La mia vita di zucchina, prossima settimana i vincitori. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisi.